Eccoci, ciao amici di Fuoco alle Polveri, è venerdì 22 febbraio e quindi state ascoltando questa intervista un po' indifferita. Abbiamo però voluto intercettare Tommaso e Erika dopo un'iniziativa pubblica, un'assemblea pubblica che è stata fatta adesso in polveriera. Sono un ex lavoratore per un'agenzia di servizi in appalto per la Vodafone e una compagna dell'USB. Ciao Tommaso e Erika, intanto benvenuti. Ciao, ciao. Grazie. A voi anzi, e perché, diciamolo subito, abbiamo fatto questa assemblea pubblica? Di cosa si è parlato e che cosa si è detto? Allora, intanto vorrei partire da un presupposto presentandomi. Mi chiamo Tommaso e da agosto a dicembre ho lavorato presso il Media World all'interno della Coppa di Ponte a Greve per un'agenzia a cui un gestore telefonico, in questo caso è Vodafone, dà mandato per fare attivazione dei contratti. Da dicembre ho scelto di non continuare a lavorare con un contratto illegittimo, che poi non si può nemmeno chiamare contratto perché è una lettera d'incarico. E dopo un po' di tempo, insieme ad altri colleghi che tuttora lavorano in quel punto vendita, abbiamo deciso di rivolgerci a un sindacato che in questo caso è l'Unione Sindacale di Base, e abbiamo deciso di cominciare un percorso sindacale di vertenza verso l'agenzia. Pertanto abbiamo chiamato questa assemblea pubblica che si è svolta appunto oggi, dove abbiamo informato, diciamo, i presenti sulle reali condizioni lavorative e contrattuali del nostro caso, ovvero il fatto che praticamente si lavora con una prestazione di lavoro che è richiesta da parte del datore di lavoro, che è subordinata, ma con delle lettere d'incarico che non comprenderebbero nemmeno gli orari fissi, ma nemmeno la locazione all'interno del punto vendita, perché sono lettere d'incarico per venditori porta a porta. Pertanto abbiamo dato un appuntamento, perché soprattutto con questa assemblea di oggi volevamo, appunto, come ho già anticipato, far luce su quelle sono non soltanto le nostre condizioni lavorative, ma le condizioni lavorative di tantissime persone, di milioni di persone in questo paese, non soltanto nel mondo della telefonia, ma appunto le condizioni di lavoro precarie in generale, ecco. Ci vuoi dire qualcosa del vostro caso specifico? Ci hai raccontato infatti che si tratta di un contratto che prevede una certa piramidalità, come dire, una forma di impostazione subordinata pur non essendolo. Certo, allora la struttura piramidale, all'ultimo scalino, diciamo, di questa piramide ci sono i dealer, che sono i promoter e, diciamo, i venditori. Al di sopra di loro c'è una o due figure di solito, che sono gli store manager, che sono sempre assunti dall'agenzia, sono dei senior che coordinano il lavoro dei promoter. Al di sopra di loro c'è l'area manager, che di solito è un soggetto che, diciamo, fa da tramite fra i dipendenti e l'azienda, e poi c'è l'azienda, solo che abbiamo sì il mandato da parte soltanto dell'azienda, però attiviamo per un gestore telefonico che con i propri funzionari interviene, perché abbiamo parlato di questa lettera d'incarico che comprende un fisso mensile di 500 euro lordi per una prestazione lavorativa di 120 ore mensili e una variabile non fissa che sono i target e le provvigioni. Io vorrei fare un esempio anche sulle provvigioni. Per esempio, pensate che al singolo promoter, se rateizza un cellulare, va bene, anche un iPhone di ultima generazione, quella provvigione per lui vale 2,50 euro. Nel mentre il punto vendita o anche soltanto il gestore telefonico già da quell'attivazione guadagnano 200 euro. Pensate quindi a quello che è il dislivello. Questi target, fra l'altro, sono degli obiettivi a cui si deve arrivare durante il mese, delle variabili che non dipendono soltanto purtroppo dall'impegno del lavoratore, ma da variabili come il pubblico. Bisogna pensare che si rateizza cellulari, si attivano linee fisse laddove i cellulari vengono venduti già dal punto vendita, linee fisse attivate anche da altri operatori, e non soltanto questo, non bisogna soltanto attivare, ma bisogna fare assistenza già. Questo per una spada di Damocle come quella del target, che il non raggiungimento porta il lavoratore a una considerazione di bassa produttività, comporta, diciamo, un una variante non calcolabile che poi comporta una qualità della vita poi al di fuori del lavoro bassa per il lavoratore, perché stiamo parlando appunto di una variabile fissa che sono 500 euro lordi. Questa condizione, che mi sembra infatti sia parecchio diffusa, anzi sia l'ordine del giorno dei contratti che in questo ambito vengono fatti, voi, tu e altri lavoratori, ancora lavoratori, se anche questo ho capito bene, avete deciso di fare una vertenza, avete incontrato l'USB, perché e come vi state muovendo, cosa sta succedendo? L'abbiamo fatto perché ci siamo resi conto, cioè, che il contratto che all'inizio al colloquio veniva spacciato come un co-co-co, che ci fossero delle irregolarità, diciamo, o che effettivamente reputavamo impossibile il fatto di dover lavorare per tutte quel monte ore, che sono appunto 30 ore settimanali per un salario di 3 euro l'ora. Non solo, anche dal punto di vista umano vedevamo, io personalmente, ma credo anche i miei colleghi, ne sono sicuro di questo, un impegno da parte nostra riconosciuto anche dalle persone con cui ci rapportavamo, che sono i clienti, che sono fissi o meno, ma vedevamo tutto quel lavoro, vedevamo tutti quei sorrisi che ricevevamo come una sconfitta, perché poi dal punto di vista, appunto, come dicevo prima, della qualità della vita al di fuori del lavoro o il frutto del proprio lavoro è, se non nullo, ma abbastanza basso, ecco. Con questa prima assemblea pubblica avete fatto emergere la questione, ho visto diffuso un volantino e so che avete chiamato una data già per domani, giusto? Allora sì, abbiamo chiamato una conferenza stampa domani davanti al Media World, e abbiamo fatto questo perché sicuramente pensiamo che i punti vendita non... è impossibile che non siano a conoscenza di queste situazioni, che effettivamente non essendo noi lavoratori assunti magari da loro, non si preoccupano, reputano il problema soltanto agenzia lavoratore. Quindi vorremmo che il punto vendita del Media World, e non soltanto il Media World ma anche Coop, prendessero posizione al momento che con la nostra iniziativa di domani verranno a conoscenza di anche solo questa situazione, appunto, di prendere una posizione e di dare una risposta, perché appunto all'interno dei loro punti vendita ci sono dei lavoratori che effettuano prestazioni lavorative con dei contratti assolutamente illegittimi. Va bene, cioè va bene, va male, ma va bene che se ne parli. E anzi, intanto Erika, invece, ti volevamo chiedere, hai incontrato questa storia? Sì. E avete deciso come unione sindacale di base di dargli aiuto, sostegno? Di sostenerla assolutamente. Allora, ci sono due piani da considerare. Uno è il piano della vertenza specifica di questi tre lavoratori. Quando loro sono venuti da me, uno appunto è Tommaso, ha già smesso di lavorare, gli altri sono ancora in forze presso l'agenzia per cui lavorano. E io la prima cosa che ho dovuto dirgli quando sono venuti è stata quella che molto probabilmente avrebbero perso il posto di lavoro, avrebbero smesso di lavorare l'agenzia. Noi abbiamo degli strumenti, no? Perché sicuramente, questo anche secondo il nostro avvocato che abbiamo subito interpellato, sicuramente si ravvede in questo tipo di contratto un illegittimo, che è dato dal fatto che ci troviamo di fronte a dei lavoratori che hanno una lettera d'incarico, quindi lavoratori autonomi fondamentalmente, che poi di fatto devono lavorare 30 ore a settimana, devono stare in dei turni, hanno ordini impartiti da superiori e hanno una postazione di lavoro, quindi un contratto, cioè un tipo di lavoro in tutto e per tutto subordinato. Quindi noi lo strumento ce l'abbiamo, che è quello della vertenza. Infatti questi lavoratori hanno subito scritto una lettera in cui dicono all'agenzia che considerano illegittimo il loro trattamento, e da qui partirà poi la vertenza sindacale specifica di questi lavoratori. Qual è il problema? Il problema è che i due lavoratori che ancora sono in forze, ovviamente l'agenzia ha subito preso dei provvedimenti e quindi li ha per il momento cancellati dai turni e probabilmente procederà con un licenziamento. Quindi questi lavoratori non hanno più il posto di lavoro. Questo è uno dei motivi per cui diventa difficile intercettare le lotte dei lavoratori precari, perché sempre di più tramite questi contratti, tramite il precariato nel mondo del lavoro sempre più diffuso, i lavoratori che poi alzano la testa devono sapere che probabilmente faranno una battaglia, magari la vinceranno, ma sarà una battaglia difficile e che gli farà cambiare posto di lavoro, oppure li potrà tenere ancora in quel posto di lavoro, ma a condizioni diciamo complicate, anche proprio per ambiente, no? E quindi il problema oggi del sindacato è che di sindacato c'è bisogno, noi gli strumenti li abbiamo, li possiamo mettere a disposizione, li dobbiamo mettere a disposizione, è ovviamente che i lavoratori però devono poi avere il coraggio, ma anche la forza, si tratta anche di rapporti di forza, di questioni di forza, di dover affrontare un percorso che sempre di più diventa sempre più difficile. Senti, ma sul caso specifico, prima di fare poi un'altra domanda più generale, ti volevo chiedere, siete fiduciosi su questa vertenza e poi in questa lotta che altro si può fare oltre a procedere per questa strada a vostro avviso? Allora, diciamo che dal punto di vista sindacale e legale, noi abbiamo sentito il nostro legale, i lavoratori hanno fornito una memoria scritta del loro tipo di lavoro, il legale ha fatto una valutazione e ha dato parere positivo a procedere, cioè vuol dire che secondo lui ci sono buone possibilità che se si arrivi in fase processuale i lavoratori vedano riconosciuti i loro diritti, che sono come minimo la differenza retributiva. Noi che cosa chiediamo? Chiediamo che a questi lavoratori sia riconosciuto di essere dei lavoratori subordinati e quindi di avere un contratto, di essere sotto un contratto nazionale. Per questo noi chiederemo le differenze retributive per i mesi che hanno lavorato e poi chiederemo ovviamente che la lettera di incarico si trasformi in contratto a tempo indeterminato. Questo sarà molto più difficile perché probabilmente i lavoratori saranno licenziati prima e quindi diventerà tutto molto più complicato. Però ecco, noi da questo punto di vista siamo positivi, altrimenti non l'avremmo incominciata come vertenza legale. Se l'abbiamo incominciata è perché riteniamo che ci siano dei presupposti. L'altro punto di vista, che è quello più generale, che magari ti anticipo, poi mi farai la domanda che mi avevi chiesto, però è che noi abbiamo l'obbligo non solo di lavorare per questi lavoratori, ma abbiamo l'obbligo come sindacato, il dovere, se vuoi, di portare alla luce tutto un meccanismo, no? Che, per cui una grande multinazionale come la Vodafone tiene delle agenzie di servizi puramente, solamente, esclusivamente per non occuparsi di una parte di lavoratori, per non occuparsi dei diritti di questi lavoratori direttamente, e quindi li lascia così come se non fossero propri lavoratori Vodafone, e invece sono lavoratori che dalla mattina che si svegliano, che entrano in turno, o dal pomeriggio quando prendono i turni, non fanno altro che vendere servizi per la Vodafone. E quindi per noi come sindacato, che crediamo nella reinternalizzazione nel pubblico ma anche nel privato, per noi invece sono lavoratori a tutti gli effetti della Vodafone. Ma nel tuo lavoro in sindacato ne incontri molti di questi casi? E in generale è questa la domanda ultima che vorrei farti. Infatti, quanto è difficile riuscire a intercettare il lavoro precario oggi nelle sue varie forme? Allora, diciamo che come sportello sindacale, noi siamo il sindacato si occupa di vertenze ovviamente generali, cioè di più lavoratori, vertenze collettive e vertenze personali, singole, individuali, ovviamente di lavoratori sfruttati e iperprecari individuali, cioè che vengono da soli in sindacato e con cui si incomincia una vertenza, ne troviamo tanti e interveniamo e appunto facciamo un percorso sindacale. Sempre più difficile diventa intercettare vertenze collettive, perché purtroppo la forza contrattuale, la forza proprio di rapporti dei lavoratori diventa sempre più debole e quindi sempre meno lavoratori decidono di unirsi e di opporsi. Poi c'è un'altra questione, è la questione della sfiducia e anche, secondo me, non solo sfiducia, ma anche poca conoscenza del sindacato da parte dei lavoratori, per cui magari si preferisce riferirsi a un avvocato, fare una vertenza singola, provare ad avere una forza contrattuale diretta con il datore di lavoro e, ti ripeto, per sfiducia, ma anche per poca conoscenza, non rivolgersi al sindacato. Questo ovviamente indebolisce noi come sindacato, ci fa perdere il nostro fine ultimo. Noi, il sindacato è un'associazione di lavoratori, quindi noi dovremmo difendere come associazione di lavoratori tutti i lavoratori. Purtroppo i nostri strumenti per certe tipologie contrattuali non sono più adeguate. Noi continuiamo a fare sindacato spesso con strumenti che vanno bene per il lavoro subordinato, per il lavoro dipendente, ma ad oggi sempre più il lavoro non è così e quindi noi come ricerca, come spirito di sindacato dobbiamo anche incominciare a fornire, a cervellarci noi per trovare nuovi strumenti da dare ai lavoratori. Noi, scusate se interrompo, parlerei a lungo ancora e invece non abbiamo tempo. Vi ringrazio molto per il vostro intervento, per la vostra testimonianza. Vi diamo la massima solidarietà. Grazie a voi. Grazie. Seguiremo anche, visto che abbiamo questi prossimi appuntamenti che avete fissato, avremo modo di aggiornarci. Vorrei dire un'ultima cosa, non solo personale. Spesso, quando in questo momento sto raccontando della vertenza anche agli amici e non solo, la domanda è sempre la solita: ma con un nemico come appunto Vodafone e come appunto questa agenzia che è forte così, non, la paura non c'è? Se non c'è la paura di perdere, o la volontà appunto è quella di lottare, e quello che penso io personalmente è che non lottando, non cominciando a lottare, la Vodafone avrebbe già vinto, l'agenzia avrebbe già vinto e spero di non essere soltanto un caso isolato, ecco, insieme ai miei colleghi. Ce l'auguriamo anche noi. Grazie. Di nuovo, grazie a voi. Ciao.